falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Uno degli scopi più volte dichiarati di questo programma è quello di rendere giustizia a delle persone, o meglio, far sì che delle persone sulle quali magari si parla un po' troppo poco perché il tempo ha steso una patina polverosa che non ci piace, vengano invece trattate. Per esempio, il motivo occasionale ci è venuto in mente perché il 6 dicembre scorso è stato il 22esimo anniversario della morte di questo personaggio, un personaggio che è un grandissimo attore italiano, forse è riduttivo dire grande attore, stiamo parlando di un gigante del nostro cinema. Molti critici e registi, anche stranieri, l'hanno definito il più grande attore italiano di tutti i tempi, uno dei più grandi attori del mondo. Eppure lo scorso 6 dicembre noi non abbiamo visto giornali che ne parlavano, televisioni che lo celebravano mandando in onda uno dei suoi film meravigliosi. Insomma, questa ricorrenza è passata inosservata e noi non vogliamo. Il pericolo è che ci siano dei giovani, dei ragazzi nati dopo che lui non c'era già più, oppure che erano piccoli, che non si ricordino esattamente quale è stato il peso del nostro protagonista nella storia non solo del cinema, ma del costume, delle grandi battaglie che gli intellettuali, gli attori, gli artisti di questo paese spesso hanno combattuto. Insomma, stiamo parlando del grandissimo Gian Maria Volonté, protagonista di film che sono stati pietre miliari del nostro cinema. Intanto partiamo dalle cose belle ma non fondamentali: i grandi film degli spaghetti western di Sergio Leone, l'Armata Brancaleone, ma poi cominciamo a citare, non so, Banditi a Milano, Sacco e Vanzetti, La classe operaia va in paradiso, e poi il suo capolavoro Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. È molto difficile parlare di Gian Maria Volonté per raccontare chi era l'attore, ma anche chi era l'uomo, perché lui è stato un personaggio chiuso, difficile, spigoloso, molto severo con gli altri, ma soprattutto con se stesso. Era il perfetto interprete del modo di dire genio e sregolatezza. Lui era questo, un uomo, un interprete geniale, gigantesco, come tutti quelli dotati di una forte personalità impossibile da rinchiudere dentro una definizione. Ugo Pirro, che era lo sceneggiatore del film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, lo ha conosciuto molto bene e ne parla così. Era geniale ed era anche insolito nel cinema italiano, insomma, non ce n'è un altro che ha dello stesso spessore. Diversa, assolutamente unica, perché sono anche così attori di teatro che hanno fatto il cinema come Gassman, sono diversi, insomma lui non è paragonabile a nessuno, ma questo lo danneggia anche un po', così nel ricordo delle persone, non degli storici del cinema, ma insomma nel ricordo, insomma lui non ha quella popolarità che avrebbe meritato. Era proprio genio e sregolatezza, come si può dire di Keane, in tutte le cose era molto contraddittorio. Beh sì, io per esempio, che sono diciamo di una generazione che era molto attenta a quello che accadeva in televisione, anche perché c'era un canale solo, non me lo ricordo spesso, non so, a Canzonissima, nei grandi show televisivi assieme a Luttazzi, Alberto Lupo, magari a giocare con Mina o la Carrà a pubblicizzare un film. Era uno che si tirava indietro da queste cose, era un personaggio contraddittorio, ricco interiormente ma difficile, e i personaggi difficili, chi mi conosce lo sa, sono quelli che mi piacciono di più, perché raccontare Gian Maria Volonté vuol dire addentrarsi in una personalità impegnativa, un mondo complesso, però lo faccio volentieri e devo dire con piacere che ce l'avete chiesto in tanti. Gian Maria Volonté nasce a Milano il 9 aprile del 1933, non ha un'infanzia felice perché il padre Mario è un milite fascista originario di Saronno, che nel 1944 è al comando della Brigata Nera di Chivasso e che con la fine della guerra viene arrestato, accusato di aver ordinato la fucilazione di alcuni partigiani, detenuto in attesa di giudizio, viene trovato morto in carcere. Ai familiari viene detto che si è suicidato, forse è morto per le percosse dei carcerieri. Quindi, come dire, un fascista morto nel momento in cui tutto era indefinibile, la vendetta personale si sommava alla rivendicazione politica. Un episodio che non sarà mai chiarito, che concorre a far crescere nel giovane Gianmaria un senso di ribellione, di voglia di giustizia, di insofferenza nei confronti dei prepotenti, anche se la sua ribellione poi si sposterà su terreni assolutamente opposti rispetto all'ideologia paterna, ma sempre con la voglia di difendere i deboli. La madre, Carolina Bianchi, benestante, con la morte del marito però soffre la crisi post bellica, deve fronteggiare una crisi economica, affitta le camere di casa sua, si vende i gioielli, Gianmaria deve aiutare la madre, così a un certo punto deve smettere di studiare, a 14 anni va in Francia a fare il raccoglitore di mele e ci rimane 2 anni, a 16 anni torna a casa e trova lavoro come guardarobiere presso la compagnia teatrale itinerante I Carri di Tespi. Il destino, perché lui non pensava a fare l'attore, ma il contatto con la scena, con l'arte scenica, diventa per lui un detonatore. La sua esigenza di esprimersi e di far emergere la sua voglia di giustizia si canalizza in una grande capacità espressiva. Il falco e il gabbiano. E così il sedicenne guardarobiere della compagnia I Carri di Tespi entra in qualche modo in contatto con il mondo dello spettacolo. Gianmaria Volonté comincia a vedere gli attori recitare e scopre quella voglia irrefrenabile di salire anche lui su quel palco. Lui è timido, ma il mondo della recitazione, dello spettacolo è fatto di timidi che in quel momento si trasfigurano. E poi lui si porta dentro una sofferenza, un senso di inquietudine che non lo fa mai stare fermo. Quando è sul palco, in qualche modo tutto questo diventa energia positiva. Così appena può, nel 54, a 21 anni, va a Roma e tenta l'ingresso all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Fa il provino, lo prendono subito, viene definito un giovane di grande talento. E nel 57, mentre sta ancora studiando all'Accademia, esordisce con il primo lavoro, lo sceneggiato televisivo La foresta pietrificata del regista Frank Henriquez, e poi c'è un altro sceneggiato TV, Fedra, tratto dalla tragedia di Racine. Nel 58 è parte della compagnia del Teatro Stabile di Trieste, arriva un colpo d'ala che è di un altro grandissimo, Giorgio Albertazzi, che lo chiama a recitare la parte di Rogozin nell'Idiota, tratto dal romanzo di Dostoevskij, sempre per la televisione. Così il 60 diventa un anno decisivo per Gianmaria, perché va a Verona, recita nel ruolo di Romeo in Romeo e Giulietta di Shakespeare. Giulietta è una ragazza bellissima, una grande attrice, si chiama Carla Gravina. Volonté è sposato con Tiziana Mischi, però insomma recitare la parte di Romeo di fronte a una Giulietta che è Carla Gravina probabilmente è un colpo difficilmente assorbibile. Insomma, i due si innamorano, l'anno dopo nascerà la loro bambina Giovanna, unica figlia di Volonté. Per l'epoca è uno scandalo, erano quegli anni in cui ci furono delle paternità, maternità controverse, Mina, Gino Paoli, il mondo italiano di quegli anni, insomma, era spiazzato da quello che accadeva. Lo scandalo provoca una battuta d'arresto nella carriera di Carla Gravina, ritenuta comunque scomoda, imbarazzante per la società per aver avuto una figlia fuori dal matrimonio con un uomo sposato. E Giovanna, e infatti la loro figlia si chiamerà Gravina per molti anni prima di poter prendere anche il cognome del padre. Sempre nel 60 Gianmaria Volonté fa il suo debutto cinematografico. Il film si chiama Sotto 10 bandiere di Duilio Coletti. Nel 62 arriva il suo primo ruolo da protagonista, Un uomo da bruciare di Valentino Orsini e dei fratelli Taviani. Sì, sì, dico che volete la mia testa! Ma tutti lo devono sapere! Questo calvario che vi volete preparare! Ma ricordatevi che chi ammazza me è come se ammazzasse Cristo! Come l'hai saputo? E come l'ho saputo? Allora perché riprovochi? Non ti preme la vita? Apposta riprovoco, perché ci tengo alla vita! Ascoltate cosa ricorda il regista Vittorio Taviani. Noi due stavamo preparando il nostro primo film, quindi con tutti i drammi degli esordi, ed è per raccontare questa storia di un sindacalista siciliano, Salvatore Cannevale, che era stato ucciso dalla mafia. Noi raccontavamo la storia di un capopopolo che si rappresentava, cosciente di rappresentarsi, che per convincere i suoi compagni, i suoi contadini all'azione del riscatto usava anche lo spettacolo con lui protagonista. È chiaro che c'era anche un edonismo suo. Gianmaria, quando ne parlammo, capì con quella forza quasi feroce, con quella fantasia, con quella intelligenza, con quello intuito della sua anima di attore. Era l'inizio, era la prima volta che faceva un protagonista. Lui si studiava con una pervicacia, con una concentrazione, direi, la chiamerei feroce, sotto la quale si nascondeva veramente la genialità. E così arriviamo al 1964, è un altro anno decisivo per Volonté, sia sul fronte televisivo sia su quello cinematografico, perché per la televisione realizza quello che diventerà uno dei più grandi successi televisivi italiani di tutti i tempi, Vita di Michelangelo, un'interpretazione molto forte che mette in risalto la bravura, la fisicità possente di Volonté. E sul fronte cinematografico il grande Sergio Leone lo vuole con sé nel primo dei suoi cosiddetti spaghetti western per un pugno di dollari, e il partner è un certo Clint Eastwood. Gianmaria Volonté interpreta il micidiale Ramon Rojo, il trafficante di alcolici del film. Tirate molto bene. Quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore, e un Winchester è l'arma più adatta. Sì, forse, ma io preferisco la pistola. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. È un vecchio proverbio messicano. L'anno dopo Gianmaria Volonté è di nuovo sul set di Sergio Leone per il secondo film della cosiddetta trilogia del dollaro, per qualche dollaro in più, ancora con Clint Eastwood e con Ivan Cliff. Questa volta veste i panni di El Indio, che è un tossicodipendente psicopatico ma intelligente capo di una banda di desperados. Per aiutarvi a capire vi voglio raccontare una bella parabola. C'era una volta un falegname. Pensate che possa fare fortuna un falegname? No. Beh, invece sì. Questo fece fortuna. Perché un fabbricante di casseforti, un furbacchione, pensò di mascherare una solida cassaforte facendola sembrare un qualsiasi mobile. E per questo il furbacchione chiama il nostro falegname. Ma un giorno il destino lo fa passare per El Paso. Lo fa entrare in quella banca e che ti vede? Uno dei suoi mobili che aveva fabbricato qualche tempo prima. Certo, pensate voi, quel falegname ha avuto una bella fortuna a entrare proprio in quella banca. Invece no, la sua fortuna si è fermata lì, perché poi in prigione ha incontrato me e mi ha raccontato tutto. Ha ha ha ha ha ha. Questo ruolo consacra Gianmaria Volonté presso il grande pubblico che viene conquistato da queste sue interpretazioni forti, geniali, dalla sua capacità di dare spessore, densità ai personaggi che lui costruisce. Peraltro il genere spaghetti western, l'abbiamo già detto quando parlavamo di Sergio Leone, è un filone che prende piede in Italia, lui ne gira altri, il bellissimo Quien sabe di Damiano Damiani nel 66 con Klaus Kinski, il primo western all'italiana con un significato politico perché racconta la storia di alcuni ribelli messicani e Volonté interpreta El Chuncho, che è il capo di una banda che ruba le armi all'esercito per rivenderle ai ribelli. Non è solo un bandito, non combatte per arricchirsi, ma con la convinzione di poter liberare il popolo messicano. Insomma, per Volonté il dado è tratto. Oficial! Me estoy rompiendo los cojones! Y cuando me rompo los cojones me vuelvo malo! Vamos a San Miguel, stasera si mangia e si beve, io voglio di una donna! E in compagnia! Ma che cos'hai? Forza, che a San Miguel ci sono ragazze anche per te! Avanti un po' di baldoria! E questa interpretazione assieme a Caravaggio, un altro meraviglioso sceneggiato per la TV, comincia a fare trasparire l'impegno politico e rivoluzionario destinato a caratterizzare tutta la produzione successiva di Gianmaria Volonté, perché lui, parallelamente alla sua professione di attore, coltiva la sua passione politica che lo vedrà sempre impegnato sul fronte della lotta alla corruzione, alla mafia, al potere costituito. Si impegna in concreto, si iscrive al Partito Comunista, compare addirittura nel 75 nelle liste elettorali, insomma partecipa in maniera attiva, porta nella sua professione il suo credo politico e ripete spesso che accetta o non accetta di fare un film in base al suo concetto del cinema. Per me c'è la necessità, dice, di intendere il cinema come un mezzo di comunicazione di massa. Essere un attore implica delle scelte a livello esistenziale, o essere un robot nelle mani del potere, oppure cercare di stabilire un rapporto rivoluzionario tra arte e vita. Vedete, siamo in pieni anni 70, Volonté incarna quello spirito, ma lo fa, come dire, con una purezza intellettuale che convince tutti. E vedremo quanto questo rapporto rivoluzionario tra arte e vita sarà in Gianmaria Volonté così stretto. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è il grandissimo Gianmaria Volonté, definito da molti critici, attori, registi anche stranieri come il più grande interprete italiano di tutti i tempi, uno dei più grandi attori del mondo, una straordinarietà che abbracciava tutta la sua persona, un gigante che ha dato al cinema italiano un'impronta indelebile con una carrellata molto precisa di personaggi che hanno raccontato la storia del nostro paese, soprattutto in un paio di decenni così difficili e controversi. Le sue interpretazioni sono frutto di una evidente immedesimazione totale. Sono film che hanno fatto grande il cinema italiano, ha lavorato con tutti i registi più importanti, ha portato avanti la sua idea di cinema impegnato, come impegnato era lui, militante del Partito Comunista, convinto che la sua arte potesse e dovesse rappresentare un'arma sociale per raccontare la verità, o comunque la sua verità, nel mondo nel quale stavamo vivendo e viviamo tuttora. Nel nostro viaggio all'interno di un mondo così articolato e complesso siamo arrivati a un altro colpo d'ala cruciale, un'interpretazione molto divertente all'interno di un film grandioso, uno dei film più popolari della storia del cinema italiano. Regia Monicelli, un grande Vittorio Gassman. Ranca, ranca, ranca, leon, leon, leon. Stiamo parlando dell'Armata Brancaleone del 66, dove Volonté interpreta Teofilatto dei Leonzi, un principe bizantino diseredato. Cedetelo passo. Cedetelo passo tu? No, è a te cedere, io sono cavaliere. E io che sono? Le hai viste le schiere mie? O non hai occhi? Ne ho almeno quanto tu hai la lingua. Allora è lo cervello che ti ammanca. Ma forse. Ma non lo cove. A piedi o a cavallo? No, no, cavallo no. A piedi. Lo nome mio è Brancaleone da Norcia. Io sono Teofilatto dei Leonzi, famiglia bizantina discendente da Nicefalo I. Ti vedo e ti piango. Dal 67 inizia il cinema decisamente impegnato di Gian Maria Volonté, è l'anno di A ciascuno il suo di Elio Petri, tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia, un giallo drammatico di grande spessore che vale a Volonté il nastro d'argento come miglior attore protagonista. Nel 68 arriva Banditi a Milano di Lizzani con Thomas Milian, con Don Bachi, un film altamente drammatico che racconta le imprese della banda Cavallero che aveva insanguinato le vie di Milano l'anno prima. Volonté è lui, è Pietro Cavallero, e per questa sua interpretazione riceve il Globo d'Oro. A tutti gli istituti di credito, oggetto rapine bancarie. Quando ci presenteremo per l'incasso, il cassiere ci deve consegnare una cifra che corrisponda come minimo alla base di 1 milione per impiegato. Il tempo concesso è di 60 secondi, scaduti i quali cominceremo a sparare. Vogliate considerare questo documento con la dovuta serietà? Istruite immediatamente i vostri dipendenti affinché si comportino in modo corretto, con senso di responsabilità verso il pubblico e verso la loro stessa categoria. E arriviamo al 1970, siamo nel pieno della contestazione, gli anni dei grandi cambiamenti, delle rivendicazioni sociali, anche gli attori lottano per il loro lavoro perché vogliono che vengano riconosciuti i diritti, per esempio quelli relativi alle repliche che prima non venivano pagate. Naturalmente Gian Maria Volonté è in prima linea, è il portavoce della sua categoria, unisce le convinzioni politiche a una dialettica, a una forza notevole, un carisma da leader. Questo è un altro degli anni d'oro della sua carriera, perché interpreta il protagonista di uno dei più celebri film italiani a sfondo politico giudiziario, è un capolavoro, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà. Bravo! Sentite la sua abilità, come straordinario nel disegnare la personalità del poliziotto protagonista del film, gli accenti, le pause di un discorso che sicuramente è proprio l'opposto del pensiero del Volonté uomo. E lui per questo film riceve tutti i premi più prestigiosi, il David di Donatello, il Nastro d'Argento, il Globo d'Oro. Il film vince l'Oscar nel 71 come miglior film straniero. Si inizia a parlare di Volonté come del più grande attore italiano di tutti i tempi per l'intensità, la densità, lo spessore dell'uomo, il suo impegno in tutto quello che fa, anche all'estero. Dopo la visibilità che ha avuto grazie all'Oscar, si comincia a parlare di lui in questi termini. E seguono altri film importantissimi, Uomini contro, Il caso Mattei, La classe operaia va in paradiso di Elio Petri, un'altra pietra miliare del nostro cinema. E poi c'è un'interpretazione che lui sentiva particolarmente, il film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montalto, dove c'è un bellissimo monologo, lo storico discorso che Volonté nei panni di Bartolomeo Vanzetti recita, commuovendo tutti. Bartolomeo Vanzetti, avete qualcosa da dire prima che la condanna a morte sia resa esecutiva? Sì, ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato, non ho mai versato sangue umano. Io l'ho combattuto per eliminare il delitto. Primo fra tutti, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa e nessun'altra. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E non sono anarchico, perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi 2 volte e io per 2 volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto. Il decennio degli anni 70 è un'altra infilata di capolavori: Lucky Luciano di Francesco Rosi, Giordano Bruno di Montaldo, Todo Modo di Elio Petri, Io ho paura di Damiano Damiani. E qui sul set incontra l'attrice Angelica Ippolito, la figlioccia di Edoardo De Filippo, che diventerà fino alla morte la sua compagna, perché lui dopo Carla Gravina aveva avuto una lunga relazione con la sceneggiatrice Arminia Balducci. Ma torniamo ai film, ce ne sono ancora altri meravigliosi: Cristo si è fermato a Eboli di Rosi, con il quale vince il premio BAFTA nell'83. Poi negli anni 80 arriva Il caso Moro, dove lui si immedesima a tal punto da confondersi anche fisicamente con Aldo Moro. Si pensò addirittura in certi momenti che fossero state usate scene di repertorio e invece era lui. Poi nel 90 arriva Porte aperte di Gianni Amelio, ancora tratto da un romanzo di Sciascia, ambientato nella Palermo degli anni 30, dove Volonté interpreta un magistrato che si oppone alla pena di morte in cui non crede. Altro grande film, ve lo consiglio. Poi nel 91 Gianmaria Volonté viene premiato con il Leone d'Oro alla carriera, però nonostante questo sta vivendo un rapporto molto conflittuale col cinema italiano e entra in una profonda depressione che lo porta a accettare ruoli solamente all'estero, proprio mentre si trova in Grecia sul set del film Lo sguardo di Ulisse di Teo Angelopoulos, viene stroncato da un arresto cardiaco il 6 dicembre del 94. Gianmaria Volonté ha solo 61 anni. Dopo la sua scomparsa, quasi da subito un fragoroso silenzio. Se ne parla poco di Gianmaria Volonté. La figlia Giovanna Gravina ha una manifestazione molto bella all'Isola della Maddalena, si chiama La valigia dell'attore. E lì, insomma, come dire, la centralità di Gianmaria Volonté è manifesta. Però, al di là di questo, come dicevamo all'inizio, il cinema, il mondo della cultura, il mondo della comunicazione italiano, stranamente, un pochino trascura la figura di Gianmaria Volonté. Noi, per parlare di lui, dopo averlo fatto, speriamo bene, abbiamo in questo momento proprio sua figlia Giovanna, Giovanna Gravina Volonté. Buongiorno Giovanna. Buongiorno Enrico, che sorpresa, chi l'avrebbe mai detto nella vita avere questa opportunità di essere intervistata da comunque qualcuno che io e soprattutto mio figlio abbiamo amato molto. Grazie davvero Enrico, mistero della vita. Va bene. Ti ringrazio. Noi stiamo parlando, insomma, di tuo padre, di quello che tutti hanno definito un gigante della recitazione, e l'abbiamo definito così anche noi, per cui la prima domanda è difficile confrontare la propria vita di figlia con un gigante? Bella domanda. No, intanto appunto sono figlia d'arte, quindi ne ho due, ma anche la madre. Lo so, Carlo. E chiaramente puoi ben capire che non sono cresciuta in una famiglia tradizionale, quindi con anche tutte le carenze del caso, ma anche l'esperienza straordinaria, ecco, di non vivere un quotidiano, dici, sai, ceniamo o pranziamo insieme tutti tornano i giorni, tornano dall'ufficio, certo. Però andare in giro a trovarli per le tournée in teatro, sui set cinematografici, incontrando persone altre anche di cultura e di elevatura, insomma, sicuramente è un arricchimento straordinario che mi ritengo una privilegiata, ecco, per certi versi. Senti, ma tuo padre sul lavoro che tipo di persona era? Cioè era un... perché noi l'abbiamo sempre visto, insomma, come dire, ineccepibile dal punto di vista umano e professionale, però mi sembra uno preciso, uno che non lasciava molte cose al caso. Beh, intanto allora lui aveva questo rigore, questo amore, questa passione profonda per il suo lavoro, intanto perché appunto lui pensava e diceva che questo mestiere, dal suo punto di vista, doveva avere comunque un ruolo sociale, nel senso, diceva molto semplicemente, mi vede tanta gente, quindi le mie scelte, sia dei personaggi che dei film che ha scelto di fare, dovevano sempre avere un motivo per il quale poi allo spettatore arrivava comunque un messaggio. Ecco, i suoi messaggi ovviamente sono stati sempre come le sue anche battaglie contro Sì, beh, per i diritti, lo sfruttamento, esatto, beh, certo. Esattamente, insomma. Sì, a volte facendo proprio la controparte, cioè facendo l'antagonista, cioè dando, mi viene in mente il commissario, l'indagine su un cittadino, cioè a volte facendo il cattivo della questione, certo. Cioè l'uomo del potere, se penso alla differenza tra il personaggio del commissario, insomma, e invece il personaggio della classe operaia va in paradiso, che sono, come dire, i due antagonisti di quel tempo e di quella società, ecco, lui era bravo in tutte e due le sfaccettature. Comunque attraverso anche la caratterizzazione di un personaggio di potere come poteva essere, certo, un commissario, comunque vabbè, a parte che era inserito in un film di un grande genio che purtroppo è andato via troppo presto, che era Elio Petri, certo, che veramente ha avuto la capacità anche di essere, fotografare, diciamo, un mondo, sì, cioè, ma tra l'altro anche di essere veramente, di anticipare tutta una serie di tematiche, di problematiche, certo, di sia straordinario e bellissimo, è anche molto molto faticoso, sì, se lo fai, soprattutto se fatto come lo faceva lui. Giovanna, ti ringrazio. Senti, infinitamente, però io devo dire una cosa, perché dilla, ci tengo moltissimo, sì, che noi da 13 anni proprio sull'isola, ah, certo, di Maddalena, l'abbiamo già detto, no, ma scherzi, beh, te l'avete già detto, però certo, io ci tengo molto, ma perché, noi lo ridiciamo, sì sì, perché ci serve anche per rafforzarla, perché abbiamo sempre i soliti problemi di continuità, di, certo, di cose, e però siamo cresciuti, facciamo anche un laboratorio di alta formazione per 18 ragazzi che vengono da tutta Italia, dalle maggiori scuole di recitazione italiane, insomma è una cosa che ci teniamo molto molto molto, anche perché fa parte anche della comunità, insomma, di quest'isola, e con la nostra associazione tra l'altro abbiamo riportato lì un cinema che fino a 20 anni fa non c'era, certo, e quindi siamo molto molto contenti e lo vogliamo dire. Hai fatto benissimo, hai fatto bene Enrico, io ti grazie, ringrazio, Giovanna, un abbraccio, grazie. Ciao Giovanna, grazie a voi, ciao. Ci sono delle storie a volte sconosciute e a volte che corrono il rischio di essere dimenticate, di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto. Nel caso di Gianmaria Volonté i colpi d'ala sono stati molti, soprattutto quello di scegliere un tipo di cinema confacente alle proprie battaglie e alla propria ideologia e vivere quindi tutta una vita di militanza abbinata all'arte, ma tutto questo non deve farci dimenticare che comunque la si pensi, siamo di fronte a un gigante della recitazione, Gianmaria Volonté. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito www.radio24.it, venite a cercarmi nei miei social, Facebook, Twitter, Instagram, nei nostri social, quelli del Falco e il Gabbiano, insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani.